buon iniziare, eh? Comunque, importante che la radio mantenga tra una trasmissione musicale e l'altra. Di solito con Attica Blues iniziamo scherzando, ormai ci conosciamo da anni, ci passiamo il mixer. Invece io sono contenta che poi ci siano anche persone, appunto la compagna ci ha chiamato al volo, abbiamo fatto, ci sia questa entrare e uscire di informazioni. Quella che abbiamo sentito è importante, perché appunto laddove c'è chi chiacchiera dalle calde poltrone che le occupazioni sono, no? Che le occupazioni è delinquere, occupare, che bisogna tagliare le acque, le luci e i gas, l'inverno arriva, questi sono i fatti. La concretezza, oggi penso appunto che quello che è successo è di portata notevole. La preoccupazione della compagna io credo che esprimesse appieno esattamente il livello della condizione in cui, ricordiamolo, si sta in resi, in cui si è stati mandati casomai dopo sgomberi, dopo una continua destabilizzazione, messa in destabilizzazione della propria esistenza, veramente non avere una continuità minima per migliaia di famiglie. Ok, io sono qui con lo Stres Altos per questa puntata di oggi in compagnia, perché domani è concertino, ragazzi, eh? Buonasera a tutti. Fran, ti devi avvicinare. Senti, devi far botte con sto microfono. No, mi sa che pure puoi parlare dal mio. Beh, aspetta, perché quello non va? Va. Dai, su. Senti che voci calde, potenti mezzi di onda rossa, vedi, ce la possiamo fare. Allora, bentornati alle Schiene del Sole. Intanto, dicevamo, cominciamo a dire che insomma siete qui stanchi, carichi di lavoro da musicisti, perché oltre al concerto di domani, poi lo Stres Altos sono in piena attività, no? Direi di sì, ma andiamo a vedere le immagini durante la trasmissione, sveliamo piano piano cosa stiamo facendo. Niente, stiamo registrando l'album finalmente, dopo tanto tempo, quindi sì, siamo in piena attività. Tanto lavoro, tanta concretezza, insomma è un po' la materializzazione di tanta energia, perché poi insomma, ecco, io ho questa immagine di voi alla festa del peperoncino ribelle, proprio wow! Al Forte Prenestino, il 29 sì, avete conquistato Roma, ve lo dovete ricordare quella data, secondo me. È la magia. Sì, no, ci è piaciuta, me la ricordo tantissimo perché io non potevo bere, bevevano tutti, quindi me la ricorderò per sempre, anche per quello. Infatti io l'hai detto a un certo punto, ti ho capito che è stato bellissimo fare quel concerto con l'acqua. Con l'acqua è importante, l'acqua di tutti è libera e siamo contenti pure di aver combattuto per avercela, per cui ero contenta di bermi l'acqua, l'H2O. Però sì, è stato un bellissimo concerto, speriamo di replicare domani quel popò del cinodromo, insomma, per la prima volta lo Stres Altos all'Acrobax. Siamo contentissimi di essere ospiti degli acrobati, lo dico subito, non vedo l'ora. E siamo anche contenti che dopo di noi ci sia questo bel donnino a mettere la musica, questa qui che sta davanti, che sta ridi buffetta. A mettere musica dopo di noi, infatti DJ Sergio di Marta anche insieme, delle Schiene del Sole. Sì. Però non c'era modo migliore definire una serata così. Fra in versione DJ, spigliamoci, metto un po' di musichetta che piace a me. Beh, non è che non so bravo. Non è vero. comincia subito. Allora, noi appunto intanto volevamo fare anche una telefonata per presentare un po' la serata di domani, quindi io approfitterei per mettere un brano. Quale mi consigli di quelli che mi hai selezionato qui, mi hai proposto? Quello che vuoi, Marta. Sono tutti buoni. Da qua non vedo. Sono tutti buoni. Sono una selezione accurata per Frank. Allora, mettiamo la ballata del Murghero, perché... Sì, dello Stres Altos. Va bene, sì. che fai. Vai e vai, perché non lo sai. Canti e poi cantiamo anche noi. Tu che dai tutto quello che vuoi. E allora ecco qua come si fa. Un bugiaro lo sa. Salva gli alieni e si rialzerà. Perché il bugiaro è giullare del dio della felicità. Va bene, dobbiamo sfumare lo stress alto, invece siamo tutti qua a ballare. Caro Silvio, mi dispiace, stavamo qui ballando, mi ero scordata di te. Ci sei? Scusa, ce l'hai con me? Sì. Ah, ciao. Vabbè, Silvio! Niente, fai finta di niente, ricominciamo. Allora, eccoci qua, come sai, io ospiti lo stress alto alle schiene del sole. Allora, volevamo però anche che tu presentassi un po' questa importante serata di domani, a cui appunto... Dedicata a Renoiz, totalmente. Vero, sì, tra l'altro, vabbè, diciamo che lo strealto, diciamo, è un po' la parte meno importante. Da paura. Ecco perché cominciamo benissimo, eh? Per quello l'abbiamo chiamato, sì. E chiaro, no, sono lì, no? Cioè, posso dire queste cose tranquillo. Certo, sono certo. L'importante è che le sentano, poi dopo. Che tipo. No, va bene, allora, buonasera a tutti e a tutti, intanto, e anche allo strealto che sono lì. Lo stressalto, sto dillo bene, Silvio, non c'è più a per culo, lo stressalto. Perché c'ho la zeppola e sono stanco. Okay, sto freddo, sto fuori, anche se non riesco a dirlo di seguito, diciamo. Carino. Posso farlo a pezzi. Però no, intanto ti ringrazio per aver accettato, di venire ovviamente a sostenere questa serata in una parte che poi noi abbiamo spiegato, che chiaramente è una serata che appunto si chiama Renoiz a dinner, ma insomma, è una cena di finanziamento per il progetto Renoiz che in questo momento ha bisogno un po' di finanziamento per tirare su un po' di strutture proprio pratiche, no? Renoiz insomma, ormai un po' si conosce, insomma, è un progetto che è nato da a seguito, insomma, dell'assassinio di Renato Biagetti. Era uno dei suoi sogni, quello di tirare su la sala prove, lo studio di registrazione ad Adrobax. Questo è stato fatto, per Renoiz si è evoluto, insomma, ha aggiunto la scuola di musica che insomma anche lì stanno andando avanti ovviamente con i corsi settimanali, e si è aggiunta tutta la parte appunto del sound, quindi tutta la gestione delle iniziative culturali sia musicali che non, insomma, quindi del gruppo che si è formato, poi dei tecnici, non tecnici, che comunque ricordiamo sempre, anche per chi magari si vede a volte fare cose sul palco al mixer, noi comunque siamo compagni e compagne, prima di qualsiasi altra cosa, insomma, lo facciamo perché il progetto è un progetto che nasce su l'idea della musica indipendente, l'idea della cultura indipendente come forma anche l'antifascismo e soprattutto l'antifascismo, quindi e noi siamo contentissimi di partecipare finalmente a questo progetto, sai? Cioè, ci mancherebbe altro, scusa, no? Che... No, tra l'altro io volevo aggiungere che poi io non so se loro non lo sanno, perché poi io li vorrei anche invitare in trasmissione, questo. Però non so se sanno che trasmissione faccio, quindi li devo un po' abituare. Vabbè, tutti. Mo glielo dico, mo glielo dico. Poi gli spieghi un po' come vanno le cose, sì, anche in trasmissione da me. Va bene. Okay. No, però sì, insomma, anche la scelta, ovviamente loro come gruppo, non ripeto il nome per le difficoltà di qui sopra, viene pure da un'esigenza che è legata alla data, no? Perché poi la data è caduta un po' casualmente, un po' no, sul 12 dicembre, insomma, che e vediamo, quest'anno tra l'altro sono 45 anni dalla strage di Piazza Fontana, e ci è sembrata una data significativa, tra l'altro una cosa forse anche un po' strana ma importante da dire, insomma, che in questo paese dove la memoria è corta, no? E questo purtroppo lo sappiamo, è stata scelta invece un'altra data, che è quella del 9 maggio, come data, insomma, di commemorazione delle vittime del terrorismo, una data un po' particolare perché appunto sono data in cui sono stati assassinati Aldo Moro da una parte e Peppino Impastato dall'altra, insomma, e non è stata neanche presa in considerazione la data del 12 dicembre, che invece appunto è simbolicamente ma anche materialmente, diciamo, la data in cui poi inizia la stagione, no, cosiddetta della tensione in Italia, ma soprattutto è una data che sappiamo essere un po' controversa, perché insomma diciamo che no, le responsabilità dello Stato e le collusioni con lo Stato poi sono sufficientemente state evidenziate anche dagli atti processuali, anche se appunto sappiamo come anche da quel punto di vista purtroppo la memoria ma anche la praticità dei processi è stata abbastanza cancellata, per cui ecco la scelta anche dell'Ostre Alto provato, viene perché appunto ci interessava avere con noi anche dal punto di vista musicale come dire le compagne e le compagne antifasciste e antifasciste, cioè questo anche se appunto poi la musica può essere allegra, può essere triste, non ha importanza, in questo caso è allegra, ma anche perché appunto andiamo un po' anche a festeggiare, andiamo un po' anche a farlo nel nostro modo, a ricordare anche al nostro modo, non so, con le nostre pratiche, insomma, la nostra musica, alcuni momenti, alcune tematiche, ma insomma la loro scelta viene anche da questo, quindi grazie viene anche per questo, perché ci sono persone che possiamo chiamare in determinati eventi, questo non è male, insomma, no? Beh, mi sembra perfetto, guarda, caschiamo a cecio Silvio, tutto ciò è bello. No, sì, è bello. Vabbè. Tra l'altro ultimamente anche qua a radio ci troviamo a riflettere appunto sui gruppi, di quanti gruppi in quest'anno io per esempio mi sono trovata a incrociare tutta una serie di gruppi giovani che mi dicevano riusciamo a suonare, abbiamo fatto il CD, abbiamo fatto più questo piuttosto che quell'altro, gruppi però di Pischelli, cioè veramente rispetto casomai allo Stresalto, anche casomai che non hanno dei circuiti che quotidianamente frequentano, che grazie appunto Renoiz è per tutti l'esperienza simbolo di un regalo che viene ricevuto, no? La possibilità invece di, e questo credo sia molto bello, bisogna appunto dargli molto il suo valore, ecco, è molto bello, ecco. Va bene. Vabbè, allora domani poi, sfida, ecco, ah no, niente ci sfida. Sono come, scusa? No, niente, sei sconfusa, niente, ma... sono confusa con la sfida, ormai quando sento Claudio, insomma, lo Stresalto, il Frank Claudio e te mi viene subito in mente Clash. Cresce di sì. No, vabbè, cioè, sì, quello... vediamo poi come va a finire dopo il concerto, insomma, quello che ci viene a trovare, insomma, poi siamo tutti lì, quindi figurati, insomma, il dopo post concerto vediamo che succede. Sarà, no? Così in libertà, insomma. E, no, la cosa magari così da dire, vabbè, a parte che appunto tutta la serata va appunto a sostegno di questo materiale che dobbiamo comprare, che il menù lo trovate in giro, ma insomma almeno anche succulento, poi abbiamo scelto questi due nomi un po' provocatori tra virgolette, ma anche divertenti, divertentissimi, che è il menù vegano, il menù mangia un vegano, insomma, menù vegano e menù mangia un vegano, geniale, mangia un vegano, sì, questo qua è stata la genialità di Elfo, insomma, sull'evento si sono scatenati i commenti, c'è una ragazza dice ma soprattutto è un mio amico vegano e succulento, solo cucina con padella. Sì, qualcuno ci ordina un vegano con il limone in bocca, vabbè, però ecco, insomma, tra l'altro inizia la partita proprio come nome da un vegano, per cui insomma noi abbiamo apprezzato anche l'autoironia e il sarcasmo che giustamente ci appartiene, insomma, così come ci appartiene il menù che è fatto di polenta, insomma, è fatto di cibo buono, succulento, povero, caldo, visto l'inverno, insomma, cose così, insomma, che ci hanno regalato anche una nota identità popolare, insomma, che poi è un po' come siamo noi, insomma, pure quelli delle nuove, alla fine siamo così. E va poi bene. C'è questa idea di portare una pennetta per chi ce l'ha, insomma, un MP3, uno, abbiamo detto, non ne portate più a persona, e che lo buttiamo dentro al computer, durante la cena ce l'ascoltiamo, insomma, quindi c'è anche un po' questa fase di cena in cui magari la musica sarà super variegata, perché uno si porta hair metal e l'altro si porta reggae. Bellissimo, la musica spettacolare, spettacolare. Jukebox multigenere. Va bene, fighissimo. Ok, allora. Silvio, noi siamo carichi, non ti preoccupare, ci stiamo già scaldando, stiamo facendo già le corsette preparatorie, eh? Va benissimo, va benissimo. Io sono sempre stanca, ma poi quando c'è da fame ripiglio. Va bene. Dai, un seratone domani. Mi raccomando, quindi tutte e tutte, perché poi noi facciamo la chiacchierata di noi, ma insomma il messaggio è quello di venire tutte e tutti domani sera. E a domani, Silvio. Bella, domani. Silvio. Dai, ciao. Ciao, a domani. Ciao. Ciao. Allora, rinnovando l'appuntamento, io farei un'altra pausetta musicale. Che dite? Dai, una voglia. Alica. Alica si presenta da sola. Guadalupe, Argentina. Fatto da Latino America. Connection. Connection. Sin tener voluntad, hundido en ignorancia, cegado a la verdad, esperando encontrar respuestas en lo material, rodeado de banalidad, cegado a la realidad. Y es que todo esto es falso, hay cosas que el dinero aún no ha comprado. Te matas trabajando para tu hijo educar, llegas tan tarde que no lo puedes ni mirar. Es tan triste la situación a la que nos quieren condenar. Como piezas de dominó nos quieren manejar. Animales obligados a pagar el precio de vivir en esta jungla llamada ciudad. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta de que un propósito egoísta contra el mundo atenta? Te enseñaron que sin plata no hay nada, y yo te canto que es manipulación y falsedad. Y yo estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, al deprimido esto es lo que tengo. Estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, al deprimido esto es lo que tengo. ¿Cuántos sueños quieres coronar pensando que tu hombre es el que te va a salvar? Si él no te valora y no te sabe apreciar, levanta tu cabeza y deja ya de llorar. Insegura y presa de la vanidad, pensando que sola te vas a quedar. Maquillaje y ropa no dan felicidad, joyas no logran disfrazar tu tristeza. Y dice cuántos que tu voz han callado, sin tener la razón te ha juzgado. En el piso sola te han dejado, dime a quién te ha ayudado. Hey, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que mantenerte real es lo que te alimenta? Te enseñaron a vivir sin libertad, y yo te gano con tus manipulaciones y falsedad. Y yo estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, vaya oprimido, esto es lo que tengo. Estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, vaya oprimido, esto es lo que tengo. Fuego, fuego, te digo, vaya, vaya, pregonándome verdad, escucha bien. Fuego, fuego, te digo, vaya, vaya, para quien quiera escuchar, te digo que fuego, fuego, te digo, vaya, vaya, pregonándome verdad, escucha bien. Fuego, fuego, te digo, vaya, vaya, para quien quiera escuchar, te digo que estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, vaya oprimido, esto es lo que tengo. Estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, vaya oprimido, esto es lo que tengo. Oye, pidiendo y cantando está. Que le toque el mambo. Ay, mira, yo la oigo gritar sus pregones. Ay, qué rico canto. Y ya veo que está ya la gente. Y aquí viene la pantera con el mambo muy sabroso y rico pa' bailar, para gozar. Vabbè, anche sfumare la pantera mambo non è carino, ma il tempo corre, diciamo, mettiamola così. Abbiamo ancora tanto da fare, oltre a parlare dell'Oltresalto, appunto abbiamo toccato una serie di tematiche oggi nella trasmissione con mia grande gioia, e continueremo anche in chiusura a parlare di una vertenza che è quella dei lavoratori di del Policlinico di Tor Vergata. Pure lì lasciamo perdere, ne sentiremo delle belle. Comunque invece adesso concentriamoci a parlare dello Stresaltos. Come dicevamo, appunto, sono tornati ospiti, abbiamo presentato la serata di domani, ma insomma io mi ricordo che la prima volta che siete stati qui, che avevate delle registrazioncine che mi dicevate sì, mandiamole, però si sentono, e poi sono quelle che attualmente stiamo ascoltando. Esatto, insomma. Esatto, però poi appunto quando vi ho visto la Sagra del Peperoncino, dicevo, secondo me è stato veramente un bello spettacolo, nel senso che voi trasmettevate l'emozione casomai di una cosa come quella, c'era un botto di gente, però è stata una bella esplosione che secondo me vi ha fatto fare un passaggio. Il passaggio poi adesso secondo me si confermerà col disco che è in forno. Sì, sabato e domenica abbiamo forno. Ufficialmente, lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando, abbiamo ufficialmente cominciato a registrare veramente il nostro album, cioè The Original One, il primero. Attenzione, quando 12 più o meno... tracce originali, più o meno, io non lo so quando uscirà, però siamo sicuri che con il passo che abbiamo preso in questi giorni, siamo anche ritornati ieri a registrare, torneremo lunedì, e poi ci sarà il missaggio, la post produzione e poi il missaggio, e penso che Fran, aiutami a dire, beh, almeno fra un po' è pronto. Sarebbe bello farlo uscire a carnevale, che è un bel momento, insomma, lo Stresaltos lo festeggerebbero proprio. Voi siete carnevalosi, lo Stresaltos, ricordiamolo, si portano dietro la potenza della murga, sì. L'energia. E diciamo a tutti i murghieri in ascolto che il bombo con il piattino è stato registrato meravigliosamente, ragazzi, quindi ascolteremo tutta la potenza del fratello, e devo dire anche ciò che ci preoccupavano, le percussioni invece, Fran dillo tu, che non riesco quello a dire, che Claudia vorrebbe dire, è suonato con un urlante del 54, bello, che è veramente bello finalmente riuscirsi a sentire a se stesso, no? Perché noi suoniamo della musica che famo noi, però non riusciamo mai a ascoltarci, quindi non sappiamo, cioè diciamo che ascoltarci e certo. Metterci a registrare ci ha dato anche una mano a capire che vogliamo fare e come. Bello, bello, sì, infatti. E siamo molto contenti, sì. Poi vi fate delle belle chiuse, mi sa. Madonna. Beh, penso proprio di sì, già ce le stiamo cominciando a fare. Esatto, perché comunque fare un disco lì è anche tanto tempo insieme, mette alla prova tante cose. Sì, sì, è vero. Bello registrare però anche oltre ai alcuni pezzi che la gente può trovare su YouTube, che sono dell'EP che avevamo registrato 2 anni fa. Che sono 6, ne abbiamo messe 4. Bello vedere che di 12 pezzi 4 sono, diciamo, vecchi fra virgolette, invece gli altri 8 sono, diciamo, di nuova generazione, e quindi è interessante vedere pure il cambiamento. E come nascono i pezzi dello Stresaltos? Lo dico io? Vai, lo dice Fran. Noi arriviamo in saletta. Vabbè, no, così però. Vabbè, sì, sì, pure così. Vabbè, da giorni prima. Con una damma di vino. No, tipo. Già senti che Claudia, no, come che sta un po'. Come un prurito. E poi arriva un momento in cui ti fa: c'è un pezzo nuovo, senti qua. E già le teste incominano. Perché appunto Claudia poi chitarra, quindi si accompagna da sola, quindi non è che scrive solo il testo. Tu sei anche musico, suoni anche, quindi. Giustamente, io quando scrivi là, fai scrivo, la cosa insieme. Scrivo no? qualcosa, quindi... e penso a una musica, quando poi la metto, la rimetto in mano a loro quattro, loro sono quattro cervelli fervidi e frizzanti e se la mettono a cambiare tutta. Quindi l'arrangiamento, la vera anima dello Stresaltos è quando la canzone viene entra in saletta. Buttata Sì, il seme viene buttato in mezzo alla saletta e così tutto. E cambia, sì, e viene quella che poi la gente ascolta, e quindi è questa pure una magia, è fighissimo per noi. E poi è quello che unisce le persone che fanno il gruppo, no? Quello appunto, insomma, Manconto è un gruppo che nasce dall'amicizia, dalla condivisione casomai non solo della musica, ma anche dei vissuti comuni, passioni comuni, no? Quindi non è che tu c'hai un batterista e un bassista che se hai messo l'annuncio e ti serve un batterista e un bassista, eh no? Sì, lo stressato non è proprio così. Esatto, no? Questo poi ti dà la possibilità di entrare in saletta col pezzo di Claudia che poi esce, perché esatto, cioè secondo me la condivisione è anche di altro, e questo secondo me è molto una cosa dei gruppi che poi esprimono una, non so come dire, una sostanza, no? È quello che fa i testi, è quello che ti fa dire certe cose nei testi, è quello che ti fa appunto caricare non solo la musica fine a se stessa, ma metterci dentro tutto. Infatti, come diceva Silvio prima, il fatto che diciamo ci abbiano scelto fra virgolette a noi per fare questa serata di Renoiz, noi ripetiamo che siamo contentissimi sia di partecipare che di andare per la prima volta a suonare ad Acrobax. E dopo 5 anni dello Stresaltos, insomma, è anche questo, cioè nel senso che noi i vissuti che abbiamo, noi siamo al Quadraro, siamo al Centro Sociale Spartaco, abbiamo la Murga, facciamo tante altre cose insieme, seguiamo tanto la politica del territorio, viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, e quindi il fatto di scrivere determinati testi non ti dico che viene naturale, perché poi vabbè, scriviamo i testi su tante cose, però quando si scrivono in particolare su determinati argomenti c'è, diciamo, la sensibilità di tutti a rendere quella canzone particolarmente fica, perché deve arrivare bene quel messaggio, e noi siamo più carichi nel darlo quando la suoniamo. Non so, anche quella è una cosa che io lo dico sinceramente, accade, è così, perché poi abbiamo ecco appunto su questi 12 pezzi che andiamo a registrare, diciamo la metà parlano di cose che ci succedono tutti i giorni, che la gente vive tutti i giorni. Mo non li sto a specificare, li andrete a sentire quando l'album sarà pronto, però sono cose che ci accomunano. Per esempio, che hai messo la cumbia della Cenere? Yes. Appunto, questa io non mi stanco mai di dirlo dal palco, è una canzone che noi abbiamo creato, è venuta fuori dopo che alcuni di noi hanno partecipato alla manifestazione che c'è stata quel 14 dicembre del 2010 a Piazza del Popolo, che poi è finita a Piazza del Popolo, fatta di studenti e precari, di gente comune, che insomma è stata una vera potenza quella, una delle ultime bellissime, ma se non l'ultima bellissima manifestazione che è stata fatta tutti insieme. E la potenza, il testo di questa canzone racconta la potenza che fa la gente quando veramente sta tutta insieme a fare un'unica cosa, ed è quello che noi ci auspichiamo che succeda sempre. Purtroppo questo non è che succede sempre, però ce lo spieghiamo, andiamo a sentire, ascoltare. È una preghiera allora che succeda sempre. Dai. Non mi vedi questa sera, non mi vedi questa sera. Mia, cerco tra la folla nella calca che passa. Noi che facciamo casi me muero. ¿Cómo lo ves? Ya sabes que te quiero. No, no quiero saber. Dice que es la que si mueve la tua mano la mía. Dice tu pues no se arriba la policía. Eccelere la polizia, eccelere. Noi oggi abbiamo capito, ci vogliamo credere. E allora vedi che la celere non è, non è proprio così celere come credevi te. La gente l'ha capito e non ha più paura. C'è una carica che parte contro con la vita mia. Ci basta un secondo è abbastanza per credere. Noi oggi abbiamo capito, non vogliamo cedere. Il nostro spirito più libero col vento, la città in un momento si riprenderà. Il nostro cuore profondissimo e violento, nella piazza nel tumulto s'accenderà. La cumbia della cele, la murga e la cumbia che si fondono, lo posso dire, perché la cumbia lo puoi dire ben forte, sorella. E allora, che cosa vogliamo dire? Che noi lo sappiamo che questi generi siete proprio un po' duri a morire, nel senso che piano piano lo state scoprendo, che la cumbia non so perché, che la murga non so perché, che nessuno vi chiede di mascherarvi, cioè, però, cioè, meglio sorride un po' di più, no? Meglio mamma sempre mia. Sorride di più, meglio in eccesso queste cose. E quindi che la nostra e la vostra, che insomma non solo la selezionate, quella casomai tradizionale, l'andate a prendere negli altri paesi la musica degli altri, come quando facciamo i Selecta, no? Mettiamo la musica, però non è, voi insomma la fate, quindi secondo me piace, appunto, insomma, io sono molto contenta, sono qua da anni che cerco di spingere. Sì, infatti il nostro incontro così italiano, cioè, Marta lo stressalto è stato amore a prima vista, esatto. Amore a prima vista. Ma no, perché poi è stato tutto un crescendo di conoscenze, Sofia, insomma, le vogliamo nominare tutte, Laura, cioè piano piano io pure ho scoperto un po' un mondo, mi sono sentita meno sola e allora adesso insomma siamo quasi un esercito, stiamo per conquistarvi. Continua comunque a crescere perché cioè, esatto, poi si mischia bene perché comunque sentire. Anche chi appunto, mi sembra che oggi sia la giornata del tango, lo sai? Dici. Non vorrei dire una fesseria. Il giovedì? No, tipo la festa del tango, capito? La giornata. Per noi è la giornata del tango. Mi sa che stamattina all'alba, che facendo la radio, ho sentito una cosa del genere. Comunque, appunto, i generi si mischiano, anche uno ha una passione diversa. Io dico sempre: imparare ad ascoltare la musica un po' a 360 gradi, lasciarsi, casomai, trasportare un attimo da un genere che non è il proprio, chissà, si scopre qualcosa. La cumbia della celere, secondo me, è una bella, perché oltre appunto al testo che abbiamo sentito, a quello che diceva Claudia per introdurla, è un bellissimo modo di sentire due generi che si mischiano e che, se voi vogliamo, insomma, poi non è che gli uruguai sono così cumbieri, no? Quindi, insomma, è anche un bel avvicinamento di culture, dei mondi, insomma, l'Uruguay e la Colombia, insomma, sono due paesi che non è che poi si assomigliano così, sì, tanto, infatti, eh? Ma la musica argentina che facciamo noi, tra l'altro, l'Argentina è famosa per appropriarsi di un po' tutti i generi del Sud America senza averne mai creato uno vero e proprio, quindi la murga una radice è proprio questa. E infatti adesso molte murghe di Roma cominciano a inserire i ritmi di cumbia nei loro spettacoli. È bello. È molto figo, sì. Comunque, volevo dire, a proposito di quello che stavamo dicendo prima dello stress alto, ne stavamo proprio parlando adesso con Marta, che speriamo che domani venite in tanti. Insomma, il concerto del Forte Prenestino è stato un po' gioco facile per noi, perché c'era un pubblico che stava là apposta per sentire, no, lo stress alto, ma comunque quel tipo di musica lì, quindi per stare bene, per fare festa, ma anche magari per riflettere un momento. E quindi domani staremo a vedere, insomma, vi aspettiamo numerosissimi. E come ci ha detto Adriano Bono una volta, dopo un concerto, noi siamo destinati adesso, in questi tempi che verranno, a conquistarci uno ad uno le persone del pubblico. Quindi più ci venite a sentire, più vi invoglieremo, più vi convinceremo. Sì, ha voglia. Quindi è proprio una cosa di promozione sputtanatissima, però non la faccio parole. Molto volentieri. Non ho parole. Ho detto tutto. Ho detto tutto io, non ho fatto di niente. Va bene, allora io ringrazio lo Stress Altors per questa visita, ci vediamo domani pure con voi, insomma, già insomma, ci siamo preparati domani. Ti facciamo un altro po' di compagnia fino alla fine della trasmissione. Dai, è chiaro. L'appuntamento dunque con lo Stress Altors è con le Schiene del Sole, anche è per domani sera, appunto questa serata per Renoiz al Cinodromo, che potete venire da presto perché appunto c'è la cena, quindi si inizia presto, e noi continuiamo ancora un momento con le Schiene del Sole, lo Stress Altors, così a chiacchierare anche di altre cose, come avete sentito in apertura di trasmissione. Continuiamo a occuparci anche di altro, intanto una cumbietta nel medio che non ci sta mai male. Se van a pisar. ¡Apártense los cabrones! ¡Que viene la cumbia quiz para todo el mundo! Tú no sabes lo que estás perdiendo y crees que hay algo que ganar. Sigue fingiendo todo, todito el tiempo. Te van a pisar. Cerillos y mis botas. días te van a pisar. ¡Allá vamos! ¿Están listas, chicas? Te van a pisar.